è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.36 per una nuova puntata della Zanzara. I numeri per chiamarci: numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, i titoli del TG2. Due soldati morti e due feriti, tra i quali una donna, il tragico bilancio dell'attentato vicino a Herat. Le vittime sono il sergente Massimiliano Ramadù, 33 anni, e il caporal maggiore Luigi Pascazio, 25 anni. Profondo cordoglio del capo dello Stato e di tutto il mondo politico per l'attentato in Afghanistan. Berlusconi, la nostra è una missione fondamentale e cruciale per la pace. Fermate due persone per l'omicidio di Marcella Rizzello, la donna uccisa a Civita Castellana davanti alla figlioletta nel febbraio scorso. In un primo momento era stato accusato il compagno. Indagine conoscitiva dell'antitrust sulle polizze auto. Secondo le associazioni dei consumatori, nonostante le riforme, in 15 anni i prezzi sono aumentati del 155%. Studio aperto. Ancora sangue italiano in Afghanistan, una bomba esplode al passaggio del blindato. Due alpini rimangono uccisi, altri due soldati feriti. Tra loro, per la prima volta, c'è anche una donna. Cordoglio delle istituzioni per i militari caduti. Berlusconi, la nostra è una missione di pace fondamentale. Andremo avanti. Umberto Bossi, lasciare ora sarebbe una fuga. Viterbo, svolta nel giallo della donna uccisa a coltellate davanti alla figlia di 14 mesi. I carabinieri hanno fermato una coppia sospettata dell'omicidio, un napoletano di 35 anni e la sua compagna di origine polacca. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati, soldi perché? Allora, andiamo avanti, mi sembra chiaro dalle dichiarazioni del passato weekend, dalle dichiarazioni anche delle ultime ore, andiamo avanti in una discussione surreale, cioè quella sulla... sul taglio dello stipendio dei parlamentari o comunque sul taglio delle retribuzioni dei politici. Abbiamo iniziato con Calderoli che, copiando una proposta inglese, ha proposto a un certo punto il 5% in meno per i parlamentari e per i ministri. E abbiamo sentito nei giorni successivi Gasparri: via tre mensilità e meno spese nei palazzi del potere. Non si sa bene che significa, poi come si fa a dare via tre mensilità. Rotondi, ministro per l'attuazione del programma: i parlamentari rinuncino a tre mesi di indennità, anche lui. Come si fa poi concretamente? La Russa, il ministro della difesa, che tra una dichiarazione sull'Inter e l'altra dice: chiunque ricopra una carica pubblica devolva uno stipendio, cioè le mensilità devono essere solo 11 e non 12. Sentiamolo. Anziché 12 mensilità, 11 mensilità per tutti coloro che hanno responsabilità politiche o che hanno responsabilità manageriali in qualche modo connesse alla politica. Perché è giusto che, se noi chiediamo qualche sacrificio in più, qualche briciolo di sacrificio in più agli italiani, noi si faccia un sacrificio molto più grosso. Naturalmente questa corsa alla sforbiciata, questa corsa a taglio è solo virtuale, come scrive oggi Mattia Feltri sulla Stampa, perché viene promessa, anticipata da tanto tempo e poi non si fa mai. Daniela Santanchè dice in una trasmissione televisiva che l'argomento è un altro, ma è sempre quello dei politici che vogliono devolvere qualcosa a chi ha meno, e dice: l'ho sentita dire in una trasmissione che devolverebbe il suo stipendio, non so fino a quando, a un disoccupato. Sentiamo. Ci dispiace per tutto quello che è successo, però questo governo sta facendo molto. Io volevo prendere un impegno davanti a te e davanti a tutti gli italiani che ci ascoltano. Lei ha bisogno di aiuto, cerca un posto di lavoro. Io mi assumo da questo momento la responsabilità, perché una classe dirigente deve essere un esempio, per cui pagherò, sin quando tu non troverai il lavoro, lo stipendio medio degli italiani, che ti verrà dato da me personalmente. Poi... Va bene, 18.40, 800 24 00 24, la morale che si può tirare fuori da questi interventi, alcuni che avete sentito, altri che vi ho riferito, cioè la corsa al taglio del, del proprio stipendio, o comunque la tendenza in questo periodo, negli ultimi giorni, a dire beh sì, è meglio che il politico, è meglio che la politica faccia un sacrificio, è questa. Direi meno chiacchiere e poi più fatti, perché spesso queste cose sono state enunciate e mai realizzate. Alessandra Mussolini, buonasera. Sì, buonasera. Senta, anche lei è d'accordo sul fatto che si fanno troppe chiacchiere su questo tema del taglio? Ma sentendo tutte queste dichiarazioni mi stava venendo da ridere, un po' disgustoso, perché la cosa più grave sono i ladri, che purtroppo ancora ci sono. Si parla di una nuova Tangentopoli: prima rubavano per i partiti, adesso si fanno comprare le case e fanno finta di non saperlo. Quindi, però, se i cittadini, e credo che sia un segnale, sono contenti di, ma no, il 5% è poco, la metà, niente, togliamo tutto, facciamolo, tanto non è che... Senta, però lei è d'accordo sul fatto che queste cose non è che si annunciano e poi iniziano una discussione surreale, si fanno con dei provvedimenti concreti, a parte che credo che per quello che riguarda lo stipendio dei parlamentari sia la Camera a dover decidere, non un governo, cioè sono cose anche... No, il governo non c'entra niente, solo che adesso è bello dire tagliamo qua, tagliamo là. Tagliassero va benissimo, però non, giustamente come dice lei, non è che il governo decide, ma decide semmai Schifani e Fini. Esatto, il esatto. Taglio dell'indennità dei parlamentari, e quello va benissimo, ma anche dei ministri, che non ancora non so, dopo tanto tempo che faccio politica, quanto percepiscono i ministri: benefit, macchine blu, macchine verdi, segreterie, e cominciamo a parlare pure dei ministri, no? Senta, a proposito, sì, ma secondo me tutte le discussioni si possono fare, però bisogna uscire fuori dalle, perché si discute da lustri della diminuzione dei costi della politica, poi concretamente, non che la cosa, come scrive oggi Ricolfi sulla Stampa, sia poi fondamentale per i conti pubblici, è solo una questione di politica dei parlamentari, dei consiglieri regionali, certo, che guadagnano se non di più come i deputati. Ecco, però lo si faccia, so, fuori basta con le discussioni, ormai tanto le carte, le cifre le conosciamo, le sappiamo lo tutti da anni. E io aggiungerei, visto che io sono particolarmente come i cittadini indignata da quello che è successo per Casopoli, sì. Come mai indignata su questo? Lei non ha pure... Ma perché è una cosa allucinante, perché prendere in giro dicendo io non so se mi hanno comprato una casa, lo trovo veramente assurdo. Allora io avevo lanciato questo tipo di provocazione, dato che Anemone e quell'altro come si chiama, e Balducci, sì, non tanto, non è che vanno in galera, perché ormai solo i poveracci ci vanno, allora andassero a fare rogiti alla gente che deve comprarsi una casa e ci versano sopra il 60%, questo dovrebbero un bel fare compromesso, almeno 2 anni, a tutti i rogiti. È inutile che fanno quelli, sì, allora pene severe, poi dopo alla fine che succede? Niente. Senta, ma ha sentito oggi, mi ha fatto venire in mente questa roba ancora di Scajola. Oggi la moglie di Scajola ha rilasciato un'intervista a Repubblica dicendo alcune cose. Subito dopo il marito è intervenuto: non sono d'accordo con l'intervista di mia moglie. Com'è possibile una cosa? Ci si mettessero d'accordo anche in famiglia sulle interviste, no? Beh, no, veramente l'intervista è stata un'intervista molto pesante della moglie, dove fa riferimento a personaggi più in alto, quasi minacciando che il marito, andando a deporre a Perugia, sì, potesse rivelare chissà quali, esatto, cose. Quindi sono dei messaggi. Però lui ha detto di non essere d'accordo con l'intervista della moglie. Allora non ci credo, stanno tutte e due insieme. Strana questa intervista, è veramente inquietante. Senta, però io le volevo chiedere una cosa che mi ha incuriosito, perché bisogna porre fine a questa vicenda, alla vicenda che lei per l'ennesima volta ha tirato fuori in questo modo, credo ieri, durante la trasmissione di Barbara D'Urso. Sentiamo un attimo, se lei ha insistito. Sì, lo so, però lei non si sottrae. Sentiamo. È tale quale. A chi? A mio nonno. Bruno Vespi uguale a Mussolini. Uguale. Sai che cos'ha della famiglia caratteristica? Non tanto gli occhi qua. Cioè, noi abbiamo la radice del naso, tra il naso e il labbro, sì, è corto. E lui ce l'ha uguale. Lui si mette anche la postura. Quello è mio zio. Poi si chiama Bruno. Poi c'è l'età. Quello è uguale, ma lo sa pure lui, non lo vuole Bruno ammettere, farà outing anche lui. Vabbè, insomma, io dico, Alessandra Mussolini è anche una grande attrice, una grande comunicatrice, dunque sa come giocare con le parole. Per l'ennesima volta tira fuori questa storia di Bruno Vespa, che sarebbe suo zio, figlio di Mussolini. Ne parliamo tra un attimo dopo il traffico. Però guardando lui che interpreta mio nonno giovane e guardando lei, Vespa, doveva farlo lei. Ci assomigliate. È tale quale. Certo, no, soltanto... Cioè, questa è la verità. Questo, guardi. Allora... Allora, lei io sa devo che... dire una cosa. Lei sa che mi piacerebbe moltissimo fare tu. Questo ruolo. Purtroppo, anzi, però, non, del tu non e basta sono. E non sono io alle mie nipoti do del lei. Allora, quindi, allora dicevo, sono troppo anziano per occupare questo ruolo. Lui grande. È Mussolini giovane. Vabbè, Mussolini, è Mussolini della prima guerra mondiale. Vabbè, insomma, signora Mussolini, vogliamo chiarire una volta per tutto: se voi ci giocate con questa cosa, lei è Vespa, ci gioca solo lei, c'è qualcosa di vero? Insomma, la parentela tra Bruno Vespa e Mussolini. Allora, io potrei dire una cosa e la dico perché quando vado a Porta a Porta e vedo le posizioni di Vespa, che lui assume la postura, l'atteggiamento del viso, non c'è niente da fare, ma anche in alcune foto, in alcune inquadrature è simile. Poi certamente non sarà vero, però è una cosa singolare, devo dire la verità. Ha tante caratteristiche, le orecchie, quelle sono identiche, e ha tante cose, manca solo l'esame del DNA. Questa cosa è il tratto della, il tratto della, diciamo, lei ride, lei ridendo però mette in discussione tutto quello che sostiene, cioè un gioco oppure effettivamente qualcuno ha fatto delle ricerche? Nessuno ha fatto delle ricerche, povero Vespa, però è molto simile, cioè lui rispetto a, se mi dovessero dire, potrebbe essere Vespa, quindi mio zio, il figlio, certo io potrei dire sì, è tale quale. Però insomma, siamo fermi alla somiglianza. Certamente. Da qualche parte ho letto, la leggenda vuole che la madre di Vespa lavorasse nell'albergo in cui Mussolini era imprigionato al Campo Imperatore. Vedi che mano a mano ci arriviamo? Ma è vera, però Vespa lo nega, Lo nega, però che ne sa Vespa? Cioè, è vero che la madre di Vespa è stata in questo albergo dove Mussolini era imprigionato? Che ne so io, può darsi tutto. Vabbè, ma lei, insomma, lei su queste cose, sulla sua famiglia qualche ricercuccia l'avrà fatta, insomma, no? Ma no, poi mi metto a fare la ricerca su Vespa, assolutamente no. Mi limito però a dire, cioè, oggettivamente Vespa somiglia. Proprio una cosa incredibile, proprio anche a Bruno. Ha dei tratti di mio padre, anche a zio Vittorio. Che devo fare? Si somiglia? Posso negarlo? No, vabbè, posso negare l'evidenza. Sa quel gioco, come si chiama? Divisi alla nascita, no? Anche divisi alla nascita, però lei va oltre, dice, lascia sospettare che ci sia una parentela. Ma Inei? I nei, quelli non c'entrano, perché i nei sono delle cose che... I nei ce l'aveva anche papà, un viso però ce n'aveva sul corpo, mia sorella ce l'ha e ne ho qualcuno, sì. La mascella, poi non ne parliamo, insomma. No, ma la mascella non è tanto la mascella, è quanto la forma del cranio, le orecchie e la radice del naso. Ma suo padre non le ha mai detto niente su questo, no? Ma ci ridevamo, come no? Ridevate anche su questo, certo, su Vespa? Perché quando una volta con papà siamo andati da Vespa Porta a Porta, io, mio padre e lui, ci siamo fatte le foto tutti insieme, era una cosa ridicola, eravamo tutti della stessa famiglia. Ma lui scherzava, Vespa scherza su questa cosa? Vespa se l'è fatta la foto perché pure lui lo vedeva, la somiglianza era ovvia. Però quando lei dice prima o poi farà outing o coming out, quello che è? Solo lui, perché io che posso fare? No, questo è d'accordo, però quando lei sostiene prima o poi farà coming out, è così, è ancora un gioco oppure insomma, Vespa sta facendo delle ricerche su questo o no? Ma può darsi che vedono lui. Vabbè, ma lui ne, insomma, è criptico, Vespa. Certo, su questo figuriamoci. Sì. Vabbè, ma un giorno si scoprirà. Sì. Una cosa più seria, lei che insomma, è legata molto alla Campania, questa nuova giunta di Caldoro dove c'è anche Giuseppe De Mita Junior, le piace oppure no? Beh, Caldoro ha fatto una cosa molto seria, anche tecnica, visto che ha tantissime problematiche riguardo al bilancio, a sforamenti grazie a Antonio Bassolino che ha lasciato la regione come Guinness dei primati negativo, ha affidato anche a un tecnico, a una persona della Guardia di Finanza, l'osservazione anche del bilancio. È una giunta che poi deve essere verificata all'atto pratico, quindi non capisco perché ci sia stata una critica anche del Finiano Italo. Prematura, modo opportunistico, ha cominciato a criticare, invece dovrebbe rimboccarsi le maniche anche lui e lavorare tutti per la Campania. Vabbè, vedremo. De Mita Junior c'entra qualcosa in questo contesto? Ma De Mita Junior è vicepresidente, quindi non vedo, cioè non lavorerà, conta, farà bene e sarà giudicato. Un giovane comunque. Beh, certo. Bene. Bene anche De Mita Junior. Deve Anita Junior, che io non conosco, poi voglio vedere di conoscere. Adesso io vado domani proprio, quindi vedremo questo Anita Junior. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Maurizio da Treviso, buonasera anche a lei. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire sul discorso della diminuzione degli stipendi dei parlamentari. Sì, no? Cosa ci dice su questo? Qual è la sua impressione? Mi dica la sua impressione, Maurizio. La mia impressione che mi viene da ridere, anche se non c'è niente da ridere in un periodo così, no? Perché non ci credo, neanche se lo vedo, che loro riescono a hanno la volontà di abbassare lo stipendio. E anche il discorso che dicevate poco fa, c'è qualcuno che dice di togliersi tre mensilità invece di 12, 13, 11. Sì. Io non ci credo assolutamente. Guardi, perché... poi l'accavallarsi di tutte queste proposte rendono meno seria la proposta iniziale di Calderoli. Cioè, più si va avanti nei giorni e più si capisce che è una corsa per finire sui giornali, per essere citati, eccetera, eccetera. O no? Sì, la mia impressione è questa. No, ma è quello il problema. Il problema è che, oltre a questo, a mio avviso, non so, sembra che gli italiani sono veramente così stupidi. Cioè, io non riesco più a capire. Maurizio, lei ha uno straordinario accento da Palermo, nonostante il fatto che ci chiami da Treviso. Vivo a Treviso da tanti anni, lo so. Per lavoro. Grazie. Un'altra roba. Dica. Non è solo il problema comunque degli stipendi, ma è tutta la gestione anche dell'amministrazione. Perché io sto facendo un'inchiesta nel mio comune di quanto spende. Cioè, mio figlio mi dice che a scuola c'è talmente tanto caldo, escono dalla scuola tutti nudi. Sì. Ma lei dice la questione del... Ho fatto io un'inchiesta, il mio comune, sì, che io abito in provincia di Treviso, spende in 8 scuole, che non sono neanche delle scuole enormi, la media, sì, dei bambini sarà di... Quanto spende per il riscaldamento? Spende 176.000 euro all'anno. Troppo. Da permettere che tutto l'anno, non, sì, è, cioè, non è che c'è scuola, abbi pazienza, parliamo solamente... Ho capito, secondo lei troppo, va bene, grazie Maurizio. Claudio da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera Scruciani, lei è un sadico perché tutte le volte cerca di far tirare fuori ai politici delle promesse che tanto poi sono come Pusseri e Pulcinella. Comunque in Inghilterra, io parlavo con una collega oggi, prendono 55.000 sterline, mi ha detto, e loro sono estremamente scioccati dai benefits. Sai che a suo tempo venne fuori un discorso che si mettevano in piedi lista cose che non erano previste. Ma chi? In Inghilterra, in, sì, Inghilterra. Qui in Italia ho detto sì, qui ne prendono 200.000 perché 15.000 al mese per due, ne prendono 200.000. E poi tutti i benefits, cioè di fatto che... No, ma 200.000 sadismo, è compreso. Io ho capito, Cruciani, il sadismo è perché lei sembra qua, guardate, poveri sudditi, più bove siamo noi, perché prima eravamo... Però Claudio, andiamo al concreto, lei cosa vorrebbe fare? Pensa che sia ragionevole questa cosa, si arriverà a qualche risultato oppure no? Allora, il 5% è una buttad. Se cominciassero veramente a scovare gli evasori, un'evasione è anche la storia che è venuta fuori col fatto della casa... che inconsapevolmente è stata regalata a un ex ministro. Sì, però Claudio, quindi, mi parli della proposta del 5%, non dell'evasione fiscale, che è un'altra cosa. Il 5% è una bufalata e basta. Cioè, va bene, grazie. Luigi da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani. 30 secondi, Luigi, veloce. Rapidissimo, guardi. Venerdì sera ero al bar con gli amici per un aperitivo e stavamo commentando le notizie relative alla lista di Anemone, che sembra avere elargito parecchi favori, e le dichiarazioni di Calderoli sulla riduzione degli emolumenti, sì, a parlamentari e ministri e forse anche ad un insieme più esteso di amministratori pubblici. E un mio amico Antonio si è lasciato andare ad un commento lapidario che io ho trovato molto divertente, quindi ho provato a telefonare. Sì, me lo riferisca, dico. Il suo commento è: ma è possibile che con tutto quello che rubano li si debba anche pagare? E siamo qui alle 19.18 in diretta alla Zanzara. 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentiamo i titoli del TG3. Ancora una tragedia in Afghanistan, due militari italiani della missione ISAF uccisi in un attentato nel distretto di Bala Morghab, feriti altri due. Berlusconi, missione fondamentale, Calderoli sacrifici, a che servono? Bossi, non si può fuggire, Di Pietro, via dalla guerra sanguinaria. Governo a caccia dei 27 miliardi, Brunetta, nessun taglio agli stipendi degli statali, solo agli sprechi, a Bruxelles deficit nel mirino. Thailandia, scade l'ultimatum dell'esercito ai dimostranti dell'opposizione, muore il leader delle camicie rosse, ferito fotografo italiano. Appalti G8, sono altri colpevoli, dice la moglie di Scajola, ma lui la smentisce, conti sospetti, fista porta in Vaticano, Di Pietro testimone a Firenze. Ridateci il tempo pieno, protestano i genitori di alcune scuole romane, occupato l'ufficio scolastico regionale. Bene, dopo il TG3 registrato che Di Pietro, che parla di guerra sanguinaria, e la Lega hanno la stessa posizione sul ritiro delle truppe dall'Afghanistan, andiamo a sentire Sky TG24. Afghanistan, uccisi due militari italiani, altri due feriti, tra loro una donna. Berlusconi, missione fondamentale. Calderoli, verificare se questi sacrifici servono. Euro, vertici dei ministri economici, per Juncker è preoccupante la rapidità del crollo. Il PDL insiste per aprire all'UDC, ma Bossi chiarisce, il governo tiene se tiene la Lega. Manovra, piano su anzianità e vecchiaia, no di Brunetta al taglio degli stipendi degli statali. RC Auto troppo cara, interviene l'antitrust, scatta l'indagine conoscitiva. Nucleare, Turchia e Brasile trovano un accordo con l'Iran, scetticismo dalla Casa Bianca. In Thailandia morto il leader delle camicie rosse, ferito un fotoreporter italiano. Banchine roventi, inseriamo, Mourinho spaventa l'Inter, del Neri alla Juve, è ufficiale. Piccola ma rivoluzionaria, il digitale terrestre sul decoder di Sky con la Digital Key. Beh, insomma, vi faccio riascoltare una parte naturalmente dell'intervento del deputato consolo, dell'onorevole consolo, venerdì alla Zanzara sulla questione delle multe ai parlamentari che vengono fatte dal comune di Roma, e il consolo ha portato la questione in Parlamento. Se noi abbiamo l'autorizzazione a recarci sul posto di lavoro, cioè alla Camera e al Senato, con un contrassegno che il comune ci dà, questo contrassegno ci dà la facoltà di arrivare con la macchina o no? La questione è fondamentale per le finanze pubbliche, ma soprattutto per la dignità dei parlamentari, e secondo consolo andava assolutamente portata all'attenzione del Parlamento. Secondo me ci deve essere un errore con gli ausiliari del traffico. Sono intervenuti tantissimi altri colleghi, anche di altri colori politici. Sono venuti e hanno detto: hai fatto bene. E ancora insiste: sono fissato con la macchina. Perché non si prende il 52 che qualche volta ho preso? Perché noi spesso abbiamo un messaggino: attenzione, recarsi immediatamente in aula, si sta per votare. E poi specifica, come se fosse una cosa strana, che lui le multe le paga. Io l'ho pagate e ce le ho ricevute, e poi ho dovuto rispondere a tutte le lettere, giustamente, di insulti di chi non aveva capito, pensava che io volessi fare il parlamentare arrogante e lei non sa chi sono io. Chi mi conosce sa che sono esattamente il contrario. Bene, consolo che comunque ha avuto, bisogna dire, il coraggio di farsi un po' stritolare da Luca Teresi, che era con me in conduzione venerdì a Torino. 800 24 00 24, ancora un po' di teatrino della politica su questa questione, secondo me, surreale, che ogni tanto viene tirata fuori, del taglio allo stipendio dei parlamentari, o comunque il taglio ai costi della politica. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi soldi vive come un... Si parla poi di stipendi pubblici, qualcuno dice come Bossi bisogna tagliare lo stipendio anche ai magistrati. Cosa da pazzi, come si fa il taglio dello stipendio dei magistrati? I magistrati sono dei dipendenti pubblici, insomma, è complicato tagliare lo stipendio di un dipendente, statale, tanto che siccome si rincorrono le voci nel chiasso mediatico su questa vicenda, Brunetta puntualizza. Assolutamente no, nessun taglio di stipendio per i dipendenti della pubblica amministrazione, non siamo a questo punto. I contratti sono contratti, vanno, come dire, onorati e rispettati, all'interno ovviamente dei conti pubblici. Non siamo a questo punto perché effettivamente in Grecia c'è stato qualcosa di simile, c'è un taglio delle tredicesime anche degli stipendi. Calderoli, che è stato quello che ha mosso le acque, che ha fatto la prima mossa negli ultimi giorni, secondo me, lo ripeto, copiando da quello che è venuto fuori da Cameron, dal governo inglese, specifica gli alti papaveri, un'altra delle cose che fanno molta presa, no? Bisogna tagliare lo stipendio degli alti papaveri, poi quando ci va nel concreto nessuno sa dire cosa significa questa frase. Non è il problema degli statali, io ho parlato di alti papaveri, ovvero di stipendi di dirigenti del pubblico che poco si conoscono, che superano ampiamente in alcuni casi anche gli stipendi del Presidente del Consiglio, e che non esiste al mondo che continua ad essere così alti. Quindi se c'è da fare questi risparmi, iniziamo a farli su chi fino ad oggi non ha risparmiato. Dicevo che ci vuole qualche mossa concreta, pare, poi bisogna sempre verificare nel concreto, che una decisione concreta l'abbia presa il presidente della regione Piemonte, magari per alcuni sarà demagogica, non lo so, poi ripeto, le cose vanno verificate. Il neo presidente del Piemonte Cota, che ha tagliato il 5% degli stipendi della giunta, 100.000 euro l'anno in meno nelle tasche dei componenti dell'esecutivo guidato da Cota, il quale ha anche rinunciato all'auto blu. Lei mi ha promesso che avrebbe tolto l'auto blu. Sì che l'ho tolta. Lei si è tolta l'auto blu? Sì, io continuo a girare con la mia macchina. Allora... L'ho detto, l'ho fatto, anzi, e la macchina... Lo metto agli atti. E la macchina, poi per me era troppo lucente, io non sono abituato a queste cose. La macchina troppo lucente è una straordinaria immagine, l'auto blu troppo lucente mi dà fastidio, dunque rinuncio. Cota, neopresidente del Piemonte, 800240024, andiamo a un'apparizione, diciamo, bizzarra. Secondo alcuni, ho letto qualche blog oggi, la fine dei radicali, Pannella da Barbara D'Urso a parlare di amore, a modo suo naturalmente, dunque criptico, barocco se vogliamo. Anzitutto dice: mi chiamavano il frocione nazionale, un po' ci gioca su questo, sentite. All'inizio, per qualche anno, ci credevano nel mio millantato credito per tanti versi, il frocione nazionale, no? Ah, vabbè, cioè, ma io l'ho intrattenuto. Ti chiamavano il frocio, scusa? No, ma era, c'era la cosa, insomma, veniva. Poi piano piano si è compreso che invece si difendeva appunto l'essere amore contro il fare all'amore, contro il possesso, contro avere e non essere amore. Ah, è tutta un'intervista che si regge sull'essere amore e il fare l'amore, questa distinzione pannelliana a cui non interessa, diciamo, il sesso, almeno quello che sostiene, il sesso... sesso, il fare sesso, ma l'essere amore. Dice Pannella che ha ricevuto un sacco di mail e di sms di radicali che protestavano per l'invito accettato dalla Barbara D'Urso. Sentitelo. Io c'ho nel mio Facebook, sono tutti mezzo incavolati con me perché vengo dalla Barbara D'Urso. E dico: mamma mia, chi è? Allora mi si dice: ma digli la Barbara D'Urso, ce l'ho qui, aspetta che deve vedere, e le mie compagne pare che le vedono molto volentieri, allora anch'io forse, il corpo delle donne di Lorella Zanardo, in cui avrebbero per 15 minuti documentato che qui si ha un'immagine della donna che è quella reazione, insomma, vabbè. Vabbè, insomma, poi Pannella si inoltra su terreni piuttosto misteriosi, come per esempio la distinzione tra essere amore e fare l'amore. Pannella. Si può anche fare sesso fra due persone per anni senza che ci sia amore. Una cosa è fare sesso, soprattutto un po' nelle culture di oggi, un'altra è essere amore, non solo fare all'amore. E la gente applaude, secondo me, senza sapere il perché. Siamo tornati in diretta alle 19.34 con la Zanzara, 800 24 00 24, e andiamo a Udine. Luca, buonasera. Buonasera Cruzzani. Dica. Io volevo intervenire rispetto al discorso della riduzione dello stipendio dei parlamentari. Sì. A cui sono fondamentalmente contrario. Contrario perché innanzitutto il risparmio sarebbe molto probabilmente una goccia nell'oceano, non dico degli sprechi, ma diciamo dei costi complessivi della macchina statale. Troverei molto più interessante ridurre drasticamente il numero dei parlamentari, questo sì. E inoltre anche rispetto a tutti gli italiani che molto facilmente criticano gli stipendi, i privilegi dei parlamentari, in fin dei conti molto probabilmente sarebbero l'unico alibi che hanno per poterli criticare apertamente, perché di fronte a un'autoriduzione dello stipendio poi avrebbero anche la possibilità di fare meno di quello che fanno in questo momento. Beh, adesso la seconda parte del suo ragionamento secondo me è meno condivisibile, però sono d'accordo con lei poi invece sulla prima parte, cioè anch'io sono contrario alla riduzione dello stipendio dei parlamentari, è una cosa senza senso, è una cosa che vale solo come una sorta di messaggio, come cosa simbolica, però qui non c'è bisogno di cose simboliche, diciamo la verità, non c'è bisogno di altro. Ho parlato della riduzione degli tetto agli stipendi dei manager pubblici, anche in quel caso in fin dei conti è il mercato che fa gli stipendi dei manager, di conseguenza credo che sia più interessante monitorare meglio l'attività dei parlamentari, quindi un numero più ridotto di persone sarebbe più economico da gestire e più facilmente controllabile. Bene, grazie Luca. Un altro Luca da Modena, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire giusto sulla proposta di Calderoli per abbassare del 5% gli stipendi dei parlamentari. Ascoltavo anche Luca, mio omonimo da Udine, che diceva, lei Cruciani diceva non era una gran proposta, sì, era una cosa... io sarei d'accordo di abbassarlo addirittura del 50%. Anche adesso Luca, che c'entra il 50% adesso? Anche è vero che non è una cosa risolutiva, però sarebbe, come dire, di buon esempio, visto che la proposta, anzi la manovra che vorrà proporre Tremonti da 25-28 miliardi da intaccare sempre gli stessi pensionati, lavoratori dipendenti. Pensionati cosa significa? Non è che le finestre diminuite di uscita significa intaccare le pensioni? Né si possono toccare gli stipendi dei dipendenti pubblici, viene bloccato il turnover, dunque non è che vengono colpiti sempre gli stessi, come si dice, da qualche parte. E comunque, guardi Luca, anche se uno volesse agire sullo stipendio dei politici, come oggi spiega molto bene Luca Ricolfi in un articolo sulla Stampa, non è che poi si ottiene granché. Se proprio venissero diminuiti tutti gli stipendi tra consiglieri, si arriverebbe allo 0, e rotti, goccia nel mare. Gli sprechi sono altri, però andiamo veramente con delle proposte loro serie e non sempre, ripeto, colpire gli stessi, perché qui si colpiscono sempre. Ma qui non viene colpito nessuno in Italia, Luca. Il problema è che non viene colpito nessuno, cioè non c'è un'azione decisiva, forte sulla spesa pubblica. Non viene colpito nessuno, non è che si colpiscono gli stessi. Va bene, grazie. Dica. Volevo fare un intervento, se me lo consente, aprire una parentesi su quel falso federalismo della Lega che predica tanto federalismo, poi dopo Roma ladrona e poi concede finanziamenti a comuni, Catania, Palermo, che sono assolutamente non sulla bancarotta di più, con questo assolutamente non ce l'ho con la regione, con nessuno, però ce l'ho con la Lega che professa tanto questo federalismo, Roma ladrone, poi va bene. Vorrei sapere. Luca, questioni vecchie certamente, ma ancora attuali, quelle dell'atteggiamento della Lega in alcuni momenti, in alcuni frangenti. E soprattutto per quello che riguarda alcune decisioni prese per aiutare i comuni in dissesto finanziario. Marco da Latina, buonasera, dica. Buonasera. No, io volevo esprimere un concetto un po' diverso. Il discorso dei parlamentari o dei senatori che sarebbe opportuno abbassare lo stipendio, lo trovo soltanto una trovata pubblicitaria, soltanto l'ennesima trovata pubblicitaria di chi fa politica per professione. Io invece farei una proposta diversa, ma molto pragmatica, che sarebbe quello di non permettere che un parlamentare, un senatore della Repubblica possa avere altri incarichi. Io abito a Latina, ci sono dei senatori della Repubblica che sono presidenti di società dell'acqua, vicepresidenti dell'ambiente, e questo è vergognoso, che un parlamentare poi ha anche altri riscontri economici, quindi è incredibile, perché si va a toccare... Ma non è tanto una questione di soldi che vengono presi per altri incarichi, è una questione. Sì, ma non è questione, la questione economica è marginale. Io sono d'accordo con lei che i doppi incarichi andrebbero aboliti, ma non perché si possa risparmiare, quei soldi comunque vengono dati a qualcuno. No, certo, sì. Si possono tagliare le poltrone, quello è evidente, e quello sarebbe da fare, però è perché poi uno non è che ha il tempo di fare, no, di occuparsi, no, di occuparsi 100 cose in contemporanea. Viene fatto anche male, tra l'altro, quindi, e poi chi ne risponde sono i cittadini. Allora poi si presentano anche alla regione, incredibile, cioè se potessero prendere 4 incarichi lo farebbero tranquillamente, e questo è quello che dovrebbe essere fatto. Ma concretamente, non con le solite chiacchiere della politica da bar. E purtroppo i politici stanno perdendo credibilità, perché fanno soltanto spot pubblicitari, e la gente è stanca di questo. Guardi, oggi e ieri sui giornali c'erano tante faccine con i politici, ognuno aveva la sua proposta per la diminuzione del costo della politica. Francesco dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, niente, io sento parlare dei costi della politica, però vorrei portare due esempi, uno a livello nazionale e uno all'altro a livello locale, anche visto che siamo in federalismo, per parlare di quelli che possono essere i veri costi occulti della politica, lasciando perdere il discorso sui rimborsi elettorali che permettono di fare in piedi strutture di partito che sono obsolete. A parte quello, noi abbiamo la settimana scorsa, ovviamente nessun giornale l'ha riportato, a parte Il Mondo va citato per correttezza, la commissione che si occupa della legittimità degli scioperi dei dipendenti pubblici, che si riunisce non più di 5-6 volte all'anno. Sì, ma qual è? Quella presieduta da Martone? No, quell'altra, dove è stato inserito il figlio di Forlani, l'ex sottosegretario. Ah, quella era quell'altra, è quella di una commissione di garanzia, sì. Esatto, di garanzia. Ma io non so nemmeno che esista quest'altra commissione, si figuri. Esatto, e allora l'incarico è passato da 3 a 6 anni, ripeto, si riuniscono circa 5-6 volte all'anno, lo stipendio, cioè l'emolumento, è passato da 60.000 a 100.000 euro ed è cumulabile, questo a livello nazionale. Se invece noi guardiamo a vedere a livello locale, le faccio un esempio: il comune di Venezia, tanto per essere chiari, l'ex vice sindaco l'anno scorso, in agosto, con la paura di non essere rieletto, cosa ha pensato? Bene, mi faccio assumere da una società partecipata dal comune. Apriamo parentesi, una società che ogni anno perde 1.800.000 euro. Sì. Questa società l'ho assunto come direttore generale, incarico che non esisteva, ma è stato creato ad hoc, e gli hanno dato uno stipendio da 250.000 euro, quando nella stessa società ha dei ragazzi che devono portare laurea, master, post-master, esperienze professionali, offrono contratti a termine di 6-8 mesi a 800.000 euro al mese. Questo, tra l'altro, il colmo del paradosso, è diplomato. Adesso io mi domando, sono i... Vabbè, Francesco, lei dice, scusi un attimo, lei dice non bisogna guardare solo alla questione dello stipendio dei parlamentari, eccetera, ma agli enti inutili, agli incarichi inutili, eccetera, eccetera. Bene, grazie. Siamo in collegamento con Roberto Zaccaria, deputato del Partito Democratico, ex presidente della RAI. Buonasera. Buonasera. Come sta? Sto bene, mi fa piacere sentirla, perché in genere quando torno a casa in macchina l'ascolto volentieri, insomma, quindi... Siamo contenti. Senta, Zaccaria, lei su questa discussione che si è accesa da 3 giorni, secondo me è assolutamente surreale, sulla diminuzione del costo della politica, non tanto perché non si possa intervenire, per carità, perché francamente ci sono proposte ormai da tanti anni, soprattutto sulla diminuzione dei parlamentari, ma non solo, anche se, e poi alla fine si chiacchiera e non si arriva a nulla. Qual è la sua posizione? Come ha preso questa discussione che si è avviata, secondo me, da Calderoli, copiando la proposta inglese, ma questa è una mia idea. Guardi, io sentendo questo dibattito, sentendo voi, leggendo cose sui giornali, mi sono fatto un'idea abbastanza netta, cioè nel senso che io penso che ci siano in Italia delle persone che, nonostante le evasioni eccetera, hanno un reddito superiore a una certa fascia, diciamo superiore a 120.000 euro. Ecco, io penso che al momento in cui un paese deve fare dei sacrifici, mi pare giusto cominciare a fare i sacrifici da tutti coloro che hanno dei redditi superiori a una certa fascia. Cioè senza specificare delle categorie concrete, particolari. Io, se mi dicono, c'è la questione dell'economia. Bisogna avere, anziché pagare il 43-44%, paghi il 48%. Io penso che posso portarlo molto meglio che non mio figlio che è al primo impiego, comunque un giovane ingegnere, oppure magari mia sorella che vive con difficoltà con la pensione. Cioè, mi pare questo il criterio giusto. Allora non si va più a distinguere tra quelli che hanno le pensioni d'oro, i magistrati, i manager, ecco, quelli che hanno un reddito superiore. Dopodiché se il fisco non fa bene il suo mestiere, molti che guadagnano queste cifre non risultano al fisco, ma questo è un problema di riforma del fisco. Dunque, il fatto che si parli di politici, secondo lei, è pura demagogia, non c'entra nulla? No, io le dico una cosa molto semplice, cioè delle due l'una, o le indennità, diciamo, parlamentari, consiglieri regionali e altre categorie sono sbagliate, e allora questo è un altro discorso, vanno affrontate quelle, ma perché sono sbagliate? Non perché c'è una crisi, cioè nel senso... No, ma io sono d'accordo, perché... Ecco, perché, capito, cioè io penso che sia, se ci vuole una giustizia, cioè io ritengo che le indennità possono essere riviste a vari livelli, ma questo non è che c'è la crisi e si colpiscono. E allora se c'è la crisi si fa pagare a tutti quelli che hanno sopra 100.000, sopra 120, e allora siccome i parlamentari ci rientrano e forse i ministri e forse altri, ecco, allora automaticamente insieme a tutti gli altri che hanno questo tipo di redditi e che magari sono nascosti, perché sa, le pensioni d'oro sono conosciute e non conosciute, ecco, queste, io penso che sia un criterio giusto questo qui, gli altri sono demagogia. E dunque, per esempio, chi a livello locale ha avviato una cosa di questo tipo? Prima citavamo il presidente della regione Piemonte Cota, no? Che pare, poi bisogna vedere nel concreto se la cosa è operativa da subito, pare che abbia diminuito del 5% lo stipendio dei membri della giunta, facendo risparmiare 100.000 euro. Secondo lei è solo un messaggio demagogico oppure serve a qualcosa poi alle finanze del Piemonte, per esempio? No, io penso che sia propaganda, perché cioè, io penso che gli stipendi dei membri di giunta devono essere rapportati agli stipendi di quelli che in quella regione hanno un reddito uguale o superiore. Cioè, io devo dire, quando io ero presidente della RAI, siccome tutti si cercavano di sapere quanto guadagnavo, cioè, io dissi, appena insediato, dico, il mio emolumento, siccome la RAI è finanziata col canone, il mio emolumento sarà pubblico. Io ogni qualvolta l'assemblea degli azionisti stabilisce o aumenta la mia indennità, io faccio un comunicato stampa. Lei ci crederà che quei comunicati stampa erano snobbati, non interessavano più a nessuno? Lo sa Zaccaria, che a proposito di RAI, qualcuno mi comunicava che la famosa trasparenza delle consulenze esterne, eccetera, eccetera, gli stipendi che dovrebbe essere obbligatoria anche per la RAI, non è mai stata attuata. Dunque, se uno oggi va nel sito della RAI e dovrebbe essere tutto trasparente, come ha deciso Brunetta da qualche tempo, in realtà non si vede nulla, blog, insomma, pagine in costruzione o cose di questo tipo. Insomma, a proposito. Sì, ma io questo non mi tiri per i capelli dentro una vicenda che riguarda i miei successori. Cioè, io le posso dire che problemi di mancanza di trasparenza ci sono in moltissimi settori, però bisognerebbe cominciare col dire che si cominciano a dare quelle voci che sono più consistenti. Perché vede... Senta, Duca, lei mi sta dicendo, a proposito del discorso di prima, per chiudere, che lei è contrario alla diminuzione del 5%, per esempio, proposta da Calderoli. Se proponessero di diminuire del 5% il suo stipendio, lei sarebbe contrario? No, non le ho detto questo, non mi faccia dire una cosa contraria. Io ho detto che al momento in cui c'è una ragione non di esaminare l'entità ideale delle retribuzioni dei parlamentari, cioè prima bisogna decidere se è troppo al momento in cui si deve rispondere, e chi lo decide, però chi lo decide? Crisi, io dico che uno Stato serio dice tutti coloro che hanno un reddito superiore a pagano anziché il 44 il 49. Vabbè, quella è un'ipotesi di politica economica, alcuni pensano addirittura che si debbano tagliare le tasse invece di aumentarle. Tagliare le tasse, io penso che la ricetta sia semplice, cioè io taglierei le tasse a chi ha 20.000 euro e a tagliare le tasse, ma chi ne ha più di 100.000 gli si può chiedere un contributo. Non è detto che c'è una regola, si tagliano o non si tagliano. si tagliano mirando. Sì, sì, no, ho capito, poi insomma là, si può pensare a contributi una tantum, ma eccetera. Poi... Anche quello, però sì. Non è legato a alla una carica, sì, a una, ma sì. Un reddito. Sì, cioè, sì, ho il capito. Reddito alto può essere di categorie impensabili. Ho perché capito. Quelli devono essere esentati e gli altri no? Vabbè, lei mi sta dicendo perché noi dobbiamo essere colpiti? No, per... io sto dicendo facciamo... Le voglio tirare fuori un titolo, Zaccaria, sono contrario al taglio dello stipendio dei parlamentari, non ci riesco, vabbè, lei dimostrerebbe di non essere un bravo giornalista. In che senso, mi scusi? No, se titolassi in questo modo... Un titolo tendenzioso, io non ho detto questo, ho detto sì ai parlamentari, ma a tutti coloro che hanno redditi uguali. Ho capito. Tagliamo il 5%, ma a tutti quelli che guadagnano coloro che guadagnano come parlamentari è sopra, evidentemente. Certo, beh, chiaro. Senta, però insomma, qui voi mi mettete a litigare, voi interisti, perché lei è tifoso dell'Inter, voi deputati e senatori interisti vi mettete a litigare sui biglietti. Com'è questa storia? No, guarda, quella cosa un po' mi è seccata, perché io, cioè, sono cose scherzose, cioè nel senso che evidentemente noi siamo soltanto felici come interisti che l'Inter abbia vinto ieri lo scudetto prima della Coppa Italia. Quello quindi, ma questo è... Dopodiché ho saputo... Ma questo è una cosa... Scusate, però mi chiarisca una cosa prima. È vero o no che l'Inter come società ha messo a disposizione dei deputati e senatori un centinaio di biglietti? È vero? A me questo risultava. Risultava che l'Inter avesse messo, poi ho visto una precisazione che questi sono non sono 100 ma sono 90. Vabbè, ma comunque, insomma, è uguale. Non cambia nulla. Io le dico con grande franchezza. Secondo lei, adesso senza fare demagogia, nei giorni scorsi ho letto un articolo sulla casta dei deputati, sì, anche voi, per i biglietti di Stella, no? Che diceva Stella, quelli fanno la fila e invece i deputati prendono 90 biglietti così senza fare la fila. Pura demagogia anche questo? No, allora io no, assolutamente è demagogia, le dico facilmente perché vede, il problema è, prima di tutto chiariamo che tutti questi biglietti sono a pagamento, no? Costano da 240 a 300. Vabbè, quello è chiaro. Però d'accordo, ma questo è evidente, però se non lo si dice uno potrebbe pensare che l'Inter regala i biglietti, certo. Che, ecco, non ci sono biglietti, io magari quando vado a vedere le partite dell'Inter ho un abbonamento e non pago, ma voglio dire, ma quella è un'altra cosa. Però in questo caso l'Inter ha fatto una scelta e ha detto, diciamo, sono 1000 i parlamentari, noi ne dedichiamo 90 ai parlamentari. E questo qui secondo me è impeccabile. Io credo che il Real Madrid o una squadra inglese faccia la stessa cosa nei confronti di categorie che hanno un certo tipo di... Ecco, io non voglio fare demagogia anche su questo, però è normale secondo lei che una società di calcio dia attenzione così al mondo della politica e dunque diciamo dia la possibilità a un deputato di non ricorrere ai bagarini e di spendere 600, 1000, 1500 euro, ma di dare un biglietto al prezzo di costo. Lei pensa che sia una cosa normale? Guardi, le dico subito, anch'io quando devo prendere, io sono tifoso della Lazio, quando devo prendere un biglietto per andare qui a una partita a San Siro della Lazio, magari chiamo qualche consigliere comunale amico mio e gli dico: hai un biglietto da darmi di quelli che voi avete? Naturalmente evito partite, diciamo, dove c'è una ressa particolare, però insomma anch'io... per cui non si tratta di fare le verginelle su questo, No, ma io capisco quello che lei dice. Io ritengo che in una scelta discrezionale di una società, in Italia e all'estero, secondo me dedicare un certo numero di biglietti a una certa categoria, ma anche qui potrebbero essere diverse, io non trovo niente di male. Io trovo che naturalmente quello che è importante è che al momento in cui siano dati ai parlamentari siano gestiti, voglio dire, dai parlamentari. E invece che è successo? Li gestisce tutti la Russa? No, vabbè, lì è successo questo, sono già venuta fuori, che il ministro La Russa ha detto: vabbè, ve li gestisco io, perché procuro l'aereo e faccio tutto io. Questa cosa qui a me, cioè l'Inter non c'entra niente, l'Inter ha fatto la sua scelta, come ne ha dati X, non lo so come li ha dati, non ho parlato in questi giorni con Moratti, non lo disturbo per queste cose. Però voglio dire, il problema non è di Roberto Zaccaria, io non ci vado alla partita. Ah, lei il biglietto non ce l'ha? No, io non è che non ci... scusi, adesso chiariamolo. Io credo che sia abbastanza facile sapere che se io voglio andare alla partita dell'Inter lo chiedo e ci vado, voglio dire. Però io non ci vado, mi preoccupavo del fatto che essendo parlamentare io ho ricevuto delle richieste, non so, di colleghi, sì, che ci vogliono andare loro, sì, altri che ci vogliono andare i figli, non loro. Altri ancora che sono degli elettori che si rivolgono al parlamentare, perché in alcune realtà il parlamentare è un punto di riferimento non soltanto per cose politiche, per un disegno di legge, ma anche per una cosa così. Possono pensare, allora io avrei voluto, avrei immaginato, ma questo voglio dire, la cosa è finita e non si è risolta così, avrei immaginato che un parlamentare che avesse avuto un gruppo, avesse avuto alcuni biglietti, dicesse i criteri sono questi e li diamo a quei. Invece ha gestito tutto la Russia, lui smentisce però, dice che non è vero. Può smentire quello che vuole, però cioè, io lo so benissimo, io sono rimasto con delle persone che mi sono rivolte a me sapendomi interista dicendo dacci un consiglio, io ho dato all'inizio, ho consigliato di rivolgersi al sito, ci sono delle persone che sono riuscite ad averle in maniera molto elementare, però adesso alla fine c'è la frenesia perché l'Inter si è qualificata. Ma insomma questi 90 biglietti a chi sono andati? Le ho ripetuto, cioè voglio dire, se io credo da quello che mi hanno detto che il ministro La Russa ha organizzato attraverso un charter, un tour operator, voglio dire, e poi li ha dati a chi gli chiedeva, magari dei colleghi parlamentari, di persone amiche di parlamentari, ha costruito un pacchetto lui. Ora adesso io su questa cosa ci sorrido, non trovo drammatico che l'Inter li dia ai parlamentari, trovo un po' discutibile, ma col sorriso sulle labbra, che siano stati gestiti in questo modo. Poi la cosa mi pare che non sia tra le più gravi. No, ma su questo non c'è dubbio. Dunque, secondo lei non esiste anche la casta dei parlamentari che gestiscono i biglietti, come è stato scritto nei giorni scorsi? Senta, guarda, adesso con tutta la bontà di questo mondo, cioè io capisco che alcuni giornali cercano di fare apparire i parlamentari delle pessime figure in qualsiasi situazione. Io le posso dire tranquillamente che insomma in questo caso trovo che su 1000 parlamentari 90 biglietti sono dedicati a questo, come a Milano sono dedicati ai consiglieri comunali o regionali. Io penso che non ho studiato. Però io posso capire di più, lo sa che sai una cosa, Zaccaria? Posso capire di più il consigliere comunale che rappresenta la città di Milano, il quale in qualche modo insomma si può capire il biglietto per il consigliere comunale interista che vuole andare a vedere la partita. Però, francamente, per l'Inter Club Montecitorio, l'Inter Club del Senato. Insomma, che ci azzecca? Uno potrebbe anche, non dico mettersi in fila perché capisco che pretendere troppo, però insomma attivarsi anche in un altro modo che non sia il canale preferenziale dell'Inter, o no? Non la pensa così? No, guardi, io le dico sinceramente che la distinzione che lei fa è molto sottile, elegante, tra consiglieri comunali e parlamentari a me sfugge un po'. Però detto questo, io so per certo che io, Roberto Zaccaria, ho ricevuto, sapendomi notoriamente da tempo, insomma, interista, si sono rivolti a me pensando che io potessi avere un canale privilegiato. Io non ho nessun canale privilegiato, e evidentemente se avessi avuto diciamo 10 biglietti di questi 190, quanti sono, li avrei amministrati con un criterio di priorità. Diverso, ho capito. Ecco, ma tutto questo non l'ho fatto, insomma non sono poi terrorizzato dal fatto che questo non sia successo, insomma sono tutto sommato una persona ancora serena. Grazie, buonasera, siamo pronti per il TG5. In Afghanistan una bomba uccide 2 soldati italiani, altri 2 feriti, tra loro una donna, il dolore delle famiglie. Cordoglio da Napolitano, Parlamento e partiti. Berlusconi, una missione fondamentale per la pace in Afghanistan. Caos a Bangkok, ferito un fotoreporter italiano, ucciso da un cecchino, il leader delle Camicie Rosse. Presi gli assassini della donna massacrata a Civita Castellana, in febbraio, davanti alla figlia di 14 mesi. Avrebbe le ore contate il serial killer, autore di 10 delitti a Roma, al lavoro una squadra speciale. Nuvole temporali, ma quanto durerà? Meteorologi purtroppo concordi, sole e pioggia anche il mese prossimo. Tra Roma e Milano si festeggiano le segretarie, sono preparate, sorridenti, riservate e instancabili. TG1. Afghanistan, ordigno esplode al passaggio di una colonna italiana, 2 soldati muoiono, 2 gravemente feriti. Profondo cordoglio di Napolitano Berlusconi, dolore per le vittime, missione fondamentale, La Russa domani alla Camera. Sassi e tondini di ferro sulle macchine dell'autostrada, blitz nel campo nomadi milanese da dove sarebbero partiti i raid. Assicurazioni, indagine antitrust sulle polizze di auto e motorini. In un anno per la RC Auto aumenti medi del 15%. A Napoli 110.000 iscritti al concorso per 500 posti e su come superare gli esami nascono nuovi metodi. Mourinho, artefice dello scudetto interista, una stagione segnata dalle polemiche, ora dal dubbio, parte o resta? Russell Crowe, cantante in un ristorante romano, al TG1 le immagini esclusive dell'attore che si esibisce in cucina con il cast di Robin Hood. E andiamo a Renato, provincia di Milano, intanto da Blob, Inter-Napoli, questo è il titolo, sentiamo. Ma che cazzo ci attuate fatte, ma no? Qui si fa l'Italia o si muore? Buonanotte. Provincia di Milano. Salve, buonasera Cruciani. Volevo intervenire sul discorso del 5%. Dunque, volevo parafrasare una sua frase, che è: di cosa stiamo parlando? Eh beh, sì. E in pratica, loro, cioè praticamente, facciamo conto 800 parlamentari, poi se vogliamo aggiungere qualcuno, comunque con 800 parlamentari arriviamo circa 8 milioni di euro. Facciamo 10 così completiamo, facciamo cifra tonda. Il bilancio della Camera dei Deputati è 1 miliardo di euro. La manovra media cosiddetta 25 miliardi di euro. Stiamo parlando dello 0,04%, quindi il 4 per mille e così via. Io telefono da Abbiategrasso, il bilancio del Comune di Abbiategrasso sono 30 milioni di euro, cioè farebbero comodo per un terzo al bilancio del Comune di Abbiategrasso. Di cosa stiamo parlando? Le do un'altra cifra, di cifre diffuse oggi da Ricolfi sulla stampa, che già ho citato, 200 milioni, che potrebbe essere risparmio sempre se si va a colpire, diciamo, tutto. 200 milioni sono 0,2 miliardi di euro, ossia meno dell'1% di quello che ci serve, cioè 25 miliardi di euro. Insomma, siamo quello, cioè il valore così morale, no, del simbolico, sì, non si discute. Ma poi il rischio quale potrebbe essere? Abbiamo già dato, cosa volete di più? No, cioè lasciagli quel 5% e fargli lavorare di più, semmai. Il problema è che ci sono, cioè bisogna colpire l'evasione, secondo me, però questo non era l'intervento, era per dire, questa è pura demagogia. Grazie. Buonasera. Prego. Sgarbi, scatenato. Il mio lo toccano, il suo non lo vuole toccare nessuno, sia tranquillo. Questo è quello che pensa lei, e stia convinto. Io sono toccato e non faccio la vittima. Lei dimostra ciò che è. Il corpo della persona, non delle donne. Lei non sa cos'è la dignità di una donna violata, non lo sa. Lo sa perfettamente. Ecco, non sa. Anche gli uomini sono violati. Anche gli uomini. Non faccio la tiritosa. Anche gli uomini, non solo voi donne. Vittorio, stiamo parlando di violenza. Appunto, e non delle donne. Violenza verbale nei confronti di una donna, anche questa è violenza. Sì, certo. Era Vittorio Sgarbi seduto su un trespolo, su una scala, durante la trasmissione della D'Urso. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Senta Cruciani, se mi fa parlare un po' con tranquillità, perché sennò quando io parlo lei mi viene sempre l'ansia. No, io volevo dire questo, siccome diciamo qui si sta parlando, qualcuno secondo me ha frainteso proprio la materia che riguarda la questione degli stipendi dei parlamentari, io ho avuto occasione recentemente di parlare proprio in televisione di questo fatto, ne ho parlato, diciamo, scusi che spiego un telefono. Prego, rispondo proprio... pure Antonio. No, non serve. diciamo, ho parlato proprio a una televisione privata di questo argomento, ma parlavamo delle riforme in generale, no? E io, diciamo, poi vengo proprio al punto, no? Però dico, per parlare delle riforme, no, in modo serio, è chiaro che uno dovrebbe fare una commissione di studio che dura 3-4 anni, perché non è che si può dire facciamo le riforme alle riforme, bisogna fare una riforma tipo brainstorming all'anglosassone, capito? Poi diciamo, poi si deve definire un progetto complessivo dello Stato che dovremmo andare a costruire, levando questo e mettendolo in un altro complessivo, e poi bisogna definire quali sono le priorità degli interventi. Questo, però siccome non abbiamo ovviamente più il tempo di fare questo, perché abbiamo perso 16 anni dal 1994 ad oggi, abbiamo perso 16 anni di tempo. Adesso, con la situazione catastrofica che abbiamo, con tutta la popolazione che è indifferita, è chiaro che bisogna fare qualcosa. Allora mi sono detto, tanto per cominciare, bisogna dare degli esempi morali. Cioè, quando si parla dei parlamentari, non è che ovviamente qualcuno, qualche pazzo di cervello, pensa che riducendo il debito, riduciamo il debito pubblico, perché non ha ovviamente senso. Ma oggi i cittadini hanno anche bisogno di esempi morali. E allora un esempio quale potrebbe essere? Scusi. E gli esempi che li dico io quali sono? Me ne dica uno, poi la pubblicità. Io ne ho individuati 3 di esempi morali. Il primo esempio lo dovrebbe dare Giorgio Napolitano, che dovrebbe ridurre ovviamente le spese del Quirinale. Qualcosa è stato fatto, E rinunciare ai suoi benefit, per esempio Castel Porziano e Villa Rosbery dovrebbero diventare dei centri di ricerca scientifica per i giovani. Vabbè, poi, no? Seconda cosa? Mi dirà a cosa serve, ma è un messaggio morale. Ma ho capito, poi seconda cosa, Antonio? La seconda cosa, per esempio, i senatori a vita dovrebbero avere il buon gusto di dimettersi, perché noi non possiamo... Vabbè, eliminare i senatori a vita. Terzo? Il terzo, ho detto proprio con le mie parole, proprio lunedì mattina, tra le 6 e le 8, che tutti i politicanti dovrebbero ridurre il loro stipendio del 50%, perché loro tutta la... Ok, 50% in meno lo stipendio, va bene. Antonio, ho capito benissimo, queste sono le sue 3 proposte. Adesso dobbiamo mandare la pubblicità. E siamo qui alle 20:11, 800 24 00 24. Luca da Venezia, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo farle una domanda un po' provocatoria. Non a lei direttamente, perché non potrà senz'altro rispondermi, ma a Cotta. Magari lui ci sente, oppure lei lo potrà sentire chissà quando. Ma che fine fa l'autista dell'auto blu? Ma che ne so, Luca, mi sembra il minore. Non mi sembra il problema fondamentale, Luca. Lei che fa, il sindacalista degli autisti di auto blu? Ma no, il vero costo non è l'auto, è l'autista. Quindi anche lì, diciamo, che Cotta è un bel demagogico. Per quanto riguarda il discorso... Ma che significa l'autista? Mi scusi, Luca, lei che mestiere fa, tanto per essere chiari? Ma io non faccio l'autista, io sono un libero professionista. Io dico, gli autisti di tutte queste auto blu in Italia sono tanti, adesso non mi ricordo più. Ma non lo so, qual è il problema, Luca? Ma il problema è che il vero costo non è l'auto in se stessa, e sono tutti quelli che sono stati assunti per guidarle. Ah, vabbè, certo, anche quello, sì. Ma in quel senso volevo dire, guardi che io il povero autista di Cotta, poveraccio, spero che l'abbiano, anzi senz'altro l'avranno reintegrato a fare qualcosa d'altro. Sì, vabbè, le auto blu sono anche una spesa non solo per gli stipendi dell'autista, anche per tutti i costi che un'auto comporta. Sì, ma certo, ma io adesso capisco che non è il caso di parlare dell'auto blu di Cotta per ore, però voglio dire, Cotta avrà preso l'auto blu della Bresso senz'altro, quindi è un'auto che sarà avrà una manutenzione, sarà usata. Ma dice che ha rinunciato all'auto blu. D'accordo, ok, ma io la mia domanda era un po' anche provocatoria rispetto a tutti questi. Anche Zaia a Venezia ha detto, in regione, durante la campagna elettorale, in un comizio dice, non solo la mia auto blu, tutte le auto blu. Io so da amici simpatici veneziani che ci sono gli autisti che sono in fibrillazione, come? E questo elimina le auto blu, e noi cosa andiamo a fare? Allora, a questo punto, siccome conosciamo i nostri politici, gli autisti verranno reintegrati a fare i vice uscieri e siamo da capo. Sono d'accordo con lei che il costo non è solo l'autista, ma questa è una cosa così. Che fine fanno gli autisti? Fine fanno gli autisti? Dopodiché il discorso degli stipendi parlamentari, io sorrido, sono d'accordo sorridendo con chi dice tagliamogli il 50, nel senso che so che non è possibile, è un paradosso. Ma è una follia, Luca, che c'entra adesso il 50%? Infatti non si deve pensare in questo modo, sono d'accordo con lei, sono veramente d'accordo con lei, però se facciamo il 5%, che poi si farà, non si sa, secondo me è l'ennesima provata sparata così, ecco, voglio dire. Va bene, grazie. Massimo da Ferrara, buonasera. Salve Cruciani, buonasera. Dica. Hai aperto la trasmissione dicendo appunto di Calderoli il 5%, poi evidenziava che altri politici stanno cercando di mettersi un pochino in luce dicendo il 10%, una mensilità, tre mensilità, la sente anche su Canale 5 che se ne è uscita dando uno stipendio, eccetera. Poi Zaccaria è intervenuto e ha iniziato a mettere la mano avanti dicendo che non è giusto, quindi forse qualcuno si sta iniziando anche a spaventare che si potrebbe arrivare anche ad abbassare gli stipendi dei parlamentari. Guardi, per abbassare lo stipendio di un parlamentare ci vuole una decisione presa dalla Camera, cioè non è una cosa che può fare il governo. Lo stipendio dei parlamentari viene deciso dalla Camera. La mia provocazione, Cruciani, è proprio di permettere magari alla sua trasmissione di ospitare un po' di politici, partendo ovviamente da Calderoni. Per fare cosa? Per fare cosa? Per iniziare un leader parlamentare che porti proprio a questo. Qualcuno parlava del 5%, 10%, io direi che sicuramente è di lana caprina dire 5% o 3%, 10%, sicuramente però io sono un libero professionista, devo parametrare sempre per il lavoro che faccio il mio guadagno a determinati risultati. Allora, fatto X, un valore che bisogna dare sicuramente di base a tutti i parlamentari e a tutti i politici, la variabile, che deve essere una variabile sicuramente consistente, deve essere sicuramente parametrata ad una serie di risultati in termini di presenza in aula, in termini di lavori all'interno delle commissioni. Qualcuno dice la presenza in commissione, sì, ma sicuramente si può agire su questo. Grazie Massimo. Bene, 20:17, 800 24 00 24, andiamo a Roma da Alessandro, buonasera. Buonasera, sono in linea? Sì. Alessandro, in linea, okay. Dica. Senta, io sono uno di quei manager folli che lei prima ha parlato. Le spiego. Non ho capito, scusi, dico parlare. Sono un manager folle, cioè? Perché io faccio parte di un management di un'azienda multinazionale che da 2 anni sta cercando di far quadrare i bilanci nell'azienda Italia, all'interno dell'Italia. E da 2 anni non faccio altro che lavorare in termini di produttività, andando a lavorare non su licenziamenti, ma su tutta la parte di costo che è inutile o che potrebbe essere inutile. Quindi la domanda che io adesso le faccio è: qual è la differenza tra un privato e un pubblico? Su che tema, mi scusi? In termini di produttività. Che domanda è? Generica? Riguarda, bisogna vedere il settore. No, non è generica, cioè lei io le faccio questa domanda perché capire. È difficile, scusi, pubblico che lei che cosa? Devono far quadrare i conti. Sì. Far quadrare i conti sicuramente andare a guardare gli sprechi, ma andare a vedere se la classe politica, se la classe manageriale ha poi alla fine come risultato un termine ultimo positivo nei confronti dell'economia. Sì, ho capito, è molto difficile Alessandro valutare la produttività del ceto politico italiano, molto molto difficile, abbia pazienza. Però se ci pensiamo e se mai ci ragioniamo... Qual è il numero di leggi? No, perché pensiamo che bisogna tagliare le leggi piuttosto che produrne tante, no? La qualità delle leggi... Le leggi però più semplici, meno svincolate da certi... Quello sicuramente... E liberare anche una nazione da certi vincoli. Sì, poi, però Alessandro, scusi un attimo... Sulla produttività delle leggi bisogna vedere naturalmente con che occhi si vedono le cose. Alcune leggi magari sono meravigliose secondo alcuni e un orrore secondo altri, per cui insomma è difficile valutare la produttività della politica. Sicuramente la presenza nelle commissioni, i lavori, le proposte di legge, però insomma sa, anche sulla proposta di legge, uno più proposte di legge presente più lavoro fa, non è detto, perché ripeto, non è che la produttività di un deputato sia solamente nelle proposte di legge che fa, bisogna vedere la qualità di queste proposte, su che cosa sono queste proposte. Ne abbiamo tante di proposte di legge, ne abbiamo tante di leggi in Italia. Ma da qualche parte dobbiamo pure iniziare. Ma è difficile valutare la produttività di un parlamentare, molto difficile, Alessandro, molto, molto difficile. Ma se noi non incominciamo a ragionare su questo, noi fra 20 anni i nostri figli si stanno ancora rabattando su questi argomenti. Allora, io dico che è vero, lei ha perfettamente ragione dicendo che è folle andare a ridurre lo stipendio dei parlamentari. Allora rendiamoli molti di meno e andiamo a verificare questi molto meno, per cui sono facilmente individuabili, cosa stanno facendo. Allora è molto più semplice in questo modo capire cosa fanno, quanto fanno e quanto rendono. Questo è quello che normalmente viene adottato all'interno di un'azienda che alla fine dell'anno deve presentare un conto economico. Sì, però Alessandro, mi scusi, è da un sacco di tempo che diciamo, bene, la politica non deve essere come le aziende, la politica non deve essere gestita come, e poi lei mi fa invece il discorso contrario. Insomma, guardi, la cosa fondamentale secondo me è che bisogna tagliare il numero dei parlamentari, sono troppi, almeno secondo me, 900 rispetto ad altre realtà, su questo non c'è dubbio. Poi sulla produttività, ripeto, ognuno si può fare un'idea consultando i dati della Camera, consultando le presenze, gli interventi parlamentari, le assenze, certamente quello è fondamentale. Un altro metodo, francamente, non riesco a scovarlo, se me lo suggerisce lei. No, io gliel'ho già detto che sono d'accordo con lei sulla riduzione del numero dei parlamentari, perché sono più facilmente individuabili le loro azioni. Questo punto primo. Qualora questo non si potesse, non si dovesse fare, perché capisco che ci sono delle resistenze da parte di tutti, l'altra domanda che io le voglio fare è questo, e le parlo da persona che è dentro a certi ambiti, certi settori. Una persona che guadagna 10, 12, 15 mila e ha tutta una serie poi dopo di introiti cosiddetti paralleli, anche qualora gli venissero tolti 5 mila euro, le assicuro che non li cambia proprio niente. Il gesto comunque è simbolico nei confronti di coloro che hanno 1500 euro e che fanno veramente fatica a portare a casa la pagnotta, perché questo sarebbe sicuramente importante. Per cui quello che dicono la leadership e by example, cioè la dimostrazione di chi governa e ha il dovere di governare, dimostrando anche di avere una consapevolezza del distacco tra loro e il loro modo di agire e le conseguenze che ha il loro modo di agire nei confronti della loro responsabilità e della loro economia, sarebbe fondamentale. Va bene, io secondo me non è così, con i simboli non si va avanti, non riesco a capire questa cosa del simbolo, della politica che si taglia il 5% come simbolo, una cosa che mi risulta incomprensibile. Grazie Alessandro. Giuseppe da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Io ero qui che mangiavo le mie trenette col pesto. Le trenette con il pesto. Beh, insomma, lei chiama da Genova, nulla di più tradizionale. Allora, dicevo, ho sentito. Le sono andate di traverso? Le sono andate di traverso queste trenette, no? No, un pochettino, sì, un pochettino, perché non ho sentito altro che interventi tesi a demolire questa proposta simbolica del 5%, con, secondo me, il più cretino dei benaltrismi. Uno neanche la questione della macchina di cota gli va bene perché deve pensare all'autista, quell'altro vuole togliere dunque lei ha dato del benaltrista anche a me, di solito evito argomenti che mi possano di questo tipo di benaltrismo. Lei dice, io che sostengo che il taglio del 5% faccio del benaltrismo. Certo, fa del benaltrismo nella misura in cui sostiene che questa è tutta demagogia e che non serve a niente, perché cominciamo a fare questo, poi ci sono 24 regioni, quante sono, se Cota ha risparmiato 100.000 sono 100.000 per 24, ci sono 55 province, se risparmiano 100.000 euro ogni provincia, se questo, e poi si toglierà anche il numero dei parlamentari. No, ma è il suo, per carità, è un sarebbe un discorso ragionevole, secondo me, Giuseppe, no? Non perché lei fa dei discorsi irragionevoli, se poi dopo tutte queste chiacchiere ci fosse una decisione, perché in realtà è da lustri, da decenni che si parla di tagli eccetera eccetera, e poi alla fine non si arriva a nulla. Chiedo a Sergio Rizzo, che ringrazio, ciao Sergio, buonasera. Buonasera. Giornalista del Corriere della Sera, autore di un libro uscito da poco per Rizzoli, La cricca, perché la Repubblica Italiana è fondata sul conflitto di interessi. Che idea si è fatto, lui che si è occupato a lungo di queste vicende sulla casta, ma non solo nel libro La casta, anche in articoli eccetera eccetera, di questa discussione che si è avviata, secondo me, copiando dall'Inghilterra, perché la cosa temporale bisogna andare a guardare. Esce un articolo sul Corriere della Sera, su altri giornali, sull'idea del governo inglese di tagliare del 5%, e il giorno dopo, se non il giorno stesso, Calderoli fa la proposta, e di qui una serie poi interminabile di proposte: tagliamo tre stipendi, regaliamone un altro, tagliamo la tredicesima, cose di questo tipo. Sergio. Ma dunque, intanto, diciamo, tanto per inserirmi nel benaltrismo, no? Da questo punto di vista anch'io sono un benaltrista, nel senso che avevano promesso che cancellavano le province, e le province da sole valgono 17 miliardi di euro all'anno, non 7 milioni di euro come vale il taglio del 5%, che poi si riduce a 4 milioni e 8, perché una parte di quel taglio poi ritorna indietro allo Stato sotto forma di tasse. Ma diciamo, detto questo, andrebbe anche bene, perché potrebbe anche essere un segnale questo, per carità, se non fosse che poi con l'aumento delle spese del Senato, sì, previsto per il 2010, tutto quel taglio va a farsi friggere. Certo. Perché il Senato aumenta di 7 milioni e mezzo le spese quest'anno, sì, che sono più del risparmio che si ottiene tagliando il 5%. Però uno potrebbe dire che le spese del Senato diciamo sono qualcosa che non ha a che fare con lo stipendio dei parlamentari. Dopodiché, se me lo consenti, c'è anche un elemento di decenza, nel senso che il taglio del 5% degli stipendi dei ministri, sì, vale 53.000 euro. Avete capito bene? 53.000 euro all'anno, sì, significa il taglio del 5% degli stipendi dei ministri. La ministra Brambilla l'altro giorno ha detto: ah, io sono d'accordo per tagliarci del 5% di stipendi a patto di metterli dentro un fondo per le famiglie bisognose. Ora, sinceramente, faccio fatica a pensare a un fondo di 53.000 euro. Perché evidentemente il ministro Brambilla non sapeva nemmeno a quanto ammontasse il taglio del 5%. Per le famiglie bisognose. Certo. E quindi, diciamo, sì, è vero, cioè l'ascoltatore non ha torto, no? Perché quando lui dice: cominciamo da lì, poi tagliamo altro, e sarebbe un ragionamento corretto se poi venisse fatto. Esatto, ma il problema tra l'altro è questo, volevo chiederti, ma uno, cioè chi decide poi concretamente? Cioè non lo può annunciare Calderoli, no? Il taglio dello stipendio per esempio dei parlamentari, dei ministri forse sì, cioè lo stipendio dei ministri, chi è che può andare a incidere sullo stipendio dei ministri e chi sullo stipendio dei parlamentari? No, ma quelle sono leggi, no? Quindi basta fare una legge, così come nella finanziaria bloccarono la dinamica di adeguamento degli stipendi dei parlamentari, si può sempre fare questo, non è una norma costituzionale, che lo prevede una legge dello Stato, quindi la legge si cambia in 10 minuti, così come hanno fatto i vari lodi a destra e a sinistra. Cioè non è la singola Camera che decide, o il Senato e la Camera di agire sullo stipendio. Dopodiché sì, esiste anche questa chiave di lettura, cioè che in realtà una legge di questo tipo, per poter diventare operativa, davvero deve essere ratificata dalle Camere, perché dalle Camere si intende l'ufficio di presidenza della Camera, no? Perché le Camere hanno la loro autonomia, no? Sì. In realtà poi però quando il Parlamento si vota una cosa di questo tipo, non è che l'ufficio di presidenza della Camera si può mettere di traverso, certo. può fare. Allora, dopo la borsa, se mi dai altri 2 minuti, sì, beh, insomma, ti chiederò del chiacchiericcio che si è creato intorno a questa cosa, perché dopo la proposta di Calderoli abbiamo assistito a la Russa che dice: chiunque ricopre una carica pubblica devolve uno stipendio, cioè vanno bene 11 mensilità e non 12. Rotondi che dice: i parlamentari devono rinunciare a 3 mesi di indennità. Pure Gasparri, via 3 mensilità e meno spese nei palazzi del potere. Qualcuno parla di taglio agli alti papaveri, e poi gli stipendi pubblici. Ma si è innescata una discussione che, come al solito, non porta a nulla, appunto perché diventa chiacchiericcio quotidiano sulle televisioni, anche sulle radio, per carità, e sui giornali. Eccoci, 20:36, sempre in collegamento con Sergio Rizzo, autore della Cricca per Rizzoli. Dicevamo prima che l'accavallarsi di queste proposte, alcune bislacche, via 3 mensilità, 3 indennità, 11 mensilità invece di 12, rischiano in realtà di annacquare tutto, no Sergio? Ma viene il sospetto che l'obiettivo sia proprio quello. Cioè quello di finire sui giornali? Beh, insomma, a parte finire sui giornali, al limite diciamo creare una bella cortina fumogena, perché alla fine di questa roba non se ne parli più, no? Diciamo la verità, nessuno fa piacere vedersi tagliare lo stipendio, no? Ma l'idea comunque è che si proceda sempre in questi casi in ordine sparso, cioè non c'è una strategia precisa con cui il sistema politico risponde, no, alle sollecitazioni che vengono dalla gente. Cioè, diciamo la verità, la gente si è un po' stufata, no, di vedere tutti questi sprechi, che poi sono sprechi che sono originati dalla classe politica, Adesso voglio dire, non si risolve certamente col taglio del 5% dello stipendio, bisognerebbe fare molto di più, non bisognerebbe intanto intervenire per esempio sulle spese locali, no? Sì. Le province, le regioni, i comuni, certi comuni spendono delle cifre pazzesche per iniziative del tutto prive di utilità, hanno dipendenti in eccesso che sono stati assunti esclusivamente per ragioni clientelari. Le iniziative di Cota, per esempio, sulle auto blu, la sua auto blu in realtà, e sullo stipendio dei consiglieri, dei membri della giunta, sono cose anche queste, come ci diceva prima qualcuno, demagogiche, oppure hanno qualche, insomma, no, ma io sono d'accordo anche con Napolitano che dice che la politica deve essere più sobria, per cui ogni auto blu che viene eliminata è un gesto che avvicina la politica alla gente, no? Sì. Basta girare per Roma e rendersi conto degli sguardi di insofferenza che seguono tutte queste macchine blu con lampeggiante che frecciano a destra e a sinistra. Però tu dici manca un disegno complessivo. Però manca un disegno complessivo, cioè manca un... Allora, diciamo subito una cosa, per esempio, no? Ma che senso ha nel momento in cui si va verso una progressiva riduzione del numero dei parlamentari, in particolare dei senatori, che senso ha che il Senato da 7 anni abbia 2 immobili che gli costeranno alla fine 50 milioni di euro, cioè 100 miliardi, di cui uno dei due è in affitto e sta pagando l'affitto dal 2003 senza poterlo utilizzare, no? Per dire questo significa che forse è molto difficile che verranno ridotti i senatori. Appunto, dico, la prima cosa che mi viene in mente, ma di cose di questo tipo ce ne sono centinaia. Certo, e invece quando qualcuno parla anche negli ultimi giorni di riduzione, oggi Brunetta ieri credo abbia smentito qualsiasi, quando uno parla di riduzione di stipendi per gli alti papaveri, ma che significa? Sono parole vuote che non significano nulla. A chi si riferisce? Dirigenti pubblici? Gli alti papaveri e poi passano, promettono di tagliare gli stipendi degli alti papaveri, poi sta per passare una proposta di riforma della Guardia di Finanza che prevede che il comandante generale e il vice comandante generale della Guardia di Finanza ruotino al massimo entro due anni, con la conseguenza che questi si porteranno dietro una indennità pensionabile di 300.000 euro all'anno per chissà quanto tempo. È stato calcolato che soltanto questo è un aggravio per le casse dell'INPS di 4, 5, 6 milioni di euro. Per cui è tutto un modo contraddittorio di procedere, cioè gli stessi che dicono queste cose poi sottoscrivono proposte di legge così. Diverse, completamente diverse rispetto alla... Sì. Un'ultima cosa, Rizzo, ed è questa, l'ultima cosa seria che è stata fatta di intervento sui costi della politica, qual è stata? Bella domanda. Sì, bella domanda. C'è stato un ultimo intervento, credo durante il governo Prodi si è fatto qualcosa. Ma poca roba, cioè lì sono state eliminate per esempio delle commissioni. Però questo dipende anche dalla vischiosità, no? Con cui questo sistema si è, diciamo, costruito. Per cui io mi rendo conto che è molto difficile, soprattutto se poi tu sei in un governo che aveva, come il governo Prodi, 11 partiti. Che con un arco, diciamo, che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, perché questo era il governo Prodi, è chiaro che a quel punto diventa difficilissimo. Infatti il governo Prodi non è riuscito neanche a fare l'unica cosa che era il cemento della coalizione, cioè il conflitto di interessi per Berlusconi, insomma, no? Come abbiamo visto. No, in realtà non è stato fatto niente di serio. Sì. Piccole cose, ma certo non è aumentando il costo del cappuccino alla buvette di Montecitorio che si risolve. Venga anche quello, intendiamoci, però poi ci vuole un'idea. Allora, se la politica in Italia, gli organi costituzionali costano circa 3 miliardi, no, di euro, secondo me si possono tagliare di un terzo questa spesa senza che il paese ne subisca alcun tipo di contraccolpo, cioè, ed è 1 miliardo di euro, non è poco. Bene, grazie, buona serata, grazie a Sergio Rizzo. Massimo, provincia di Lodi, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Io volevo parlare dei dirigenti pubblici. Sì. Allora, inerente alla nomina degli stessi, desiderei che ci sia più meritocrazia e meno politica, con dei compensi legati a degli obiettivi che devono essere dimostrati. Solo questo. Va bene. Massimo, Fabio da Varese, questo ce lo spieghiamo tutti naturalmente, le cose in alcuni in diversi casi vanno in maniera diversa. Quanto? Fabio, prego. Sì, pronto, buonasera. Sì, solamente alcune considerazioni. Allora, la prima è che ricordo in una trasmissione di Report della Galbanelli che gli stipendi dei parlamentari fossero legati agli stipendi dei magistrati di lungo corso con oltre 20 anni di attività, un qualcosa del genere. Sì. Per cui, ecco, per ridurre l'indennità dei parlamentari bisogna ridurre l'indennità dei magistrati. No, basta che si sgancia il... Sì, certo, ok. Diciamo che la vedo leggermente più semplice forse fare che non si faccia mai niente, perché alla fine i magistrati non saranno d'accordo, non ci sarà l'accordo. Guardi, se si vuole intervenire sullo stipendio dei magistrati e dei parlamentari, non bisogna per forza intervenire su quello dei magistrati oltre un certo livello. Guardi, questo io l'assicuro. Finché diciamo sono legati. Ma non è così, Fabio, si può intervenire tranquillamente anche sullo stipendio dei parlamentari senza per forza dover intervenire sullo stipendio dei magistrati. Bisogna modificare la legge, eccetera. Ecco, seconda considerazione, sì. Per quanto riguarda l'abbassamento dell'indennità, l'unico governo nella storia che ha abbassato le indennità o ridotto del 10% è stato il governo Berlusconi, con un intervento a pochi mesi dall'elezione che ha ridotto del 10% non solo l'indennità dei parlamentari ma di tutti gli amministratori. Così, per cui 10% per tutti. Sì, non credo che il 10% fosse, diciamo, per l'eternità. Cioè... Beh, la differenza è stata che magari nessuno degli altri li ha fatto, gli unici che l'hanno fatto e l'hanno fatto è stato quello. Va bene, grazie Fabio. Ultima considerazione, semplicemente per quanto riguarda i dirigenti pubblici, a me sinceramente non scandalizza che un parlamentare prenda, non so, 10, 20, quello che è, mi scandalizza che un consigliere di amministrazione dell'ANAS o di società del genere prenda magari 10 volte di più facendo magari una seduta al mese con indennità che sono... Lei parla di un semplice consigliere sì, di un'azienda pubblica. Sì, ma vale per tutte le società a livello statale e nazionale. Ho capito. Bene, grazie Fabio. Mediamente mezzo milione. Bene, grazie. Traffico. Siamo qui per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Piero, provincia di Forlì, buonasera. Buonasera, dottor Crociani. Dica. Senta, volevo un suo parere su una proposta così. Per ridurre il numero dei parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali e quindi automaticamente ridurre la spesa della politica, diciamo, perché non leghiamo il numero di questi alla percentuale dei votanti? Facendo, diciamo, l'85% dei votanti, che il 15% è cronico, 900 parlamentari, 80%, 5% in meno, 75%, 10% in meno. Piero, non mi sembra che sia una grande idea o comunque qualcosa di percorribile. Non si può fare. No, non si può fare. Io lo dico molto sinceramente, non si può fare. Per i motivi, cioè... Ma non si può fare, Piero. Ma che significa legare al numero dei votanti? Non esiste nessun Parlamento flessibile, non può esistere un Parlamento flessibile. Cioè, il Parlamento è fatto da tot... parlamentari, deputati, senatori, bisognerebbe ridurlo, ma non è che lo si può legare al numero dei votanti in ciascuna elezione. Grazie. Renzo, provincia di Ascoli, prego. Eccomi, buonasera. Buonasera, dica. Senta, mi faccio aggiungere anche a me una sciocchezza. Io sentì l'altra sera l'onorevole Straguadagno, come si chiama non mi ricordo. Straguadagno. Straguadagno, sì. Sì, detto anche che Straguadagno. Diceva secondo... che loro incassano 5.000 di indennità. Sì. Parlamentare, 5.000 come per il portaborso o qualcosa del genere e 5.000 come rimborso spese per la permanenza a Roma. Più o meno è così, sì. La mia proposta è l'indennità che rimanga le 5.000, ma per il resto che si faccia come per tutti gli altri cittadini italiani che sono soggetti, che sono dipendenti. Se hanno delle spese, se sostengono delle spese, che le documentino. E in base alla documentazione gli vengano rimborsate. Straguadagno voleva dire che lui le spende tutte, va bene, potrebbe anche darsi che Straguadagno le spenda tutte. Però io le vorrei ricordare una frase che disse l'onorevole Casini quando era presidente della Camera, mi ricordo ad un'assemblea della Confartigianato, che disse che la maggior parte, la maggior parte dei parlamentari arrivano a Roma il martedì sera e il giovedì mattina sono già nei loro studi professionali. Queste furono le sue parole. Quindi a un certo momento, vabbè, straguadagno le spenderà, ma tutti gli altri che non le spendono, perché devono avere questo rimborso così forfettario? Ripeto, facciano come tutti gli altri cittadini italiani che sono soggetti a spendere per conto di un'azienda o per conto dello Stato, per conto, ma lo documentino, documentino le spese. Grazie, grazie Renzo. Certo. Intanto sulla guerra in Afghanistan e sui morti discutono in questo modo Capezzone e Rizzo. Rizzo, guarda, su questo non giochiamo e non scherziamo. Tu hai fatto manifestazioni bruciando bandiere israeliane, bruciando bandiere americane. Non dire cose non vere. Non fate, se dici mai cose vere, non puoi fate, avere una no, ragione non fate, diversa. Chiedo scusa, ma non dire cose Marco, non Marco, vere. Io non dico, ho mai bruciato bandiere, ma voglio poter avere la possibilità di criticare. E ancora, sentite, vergognatevi. Io avete critico questa guerra e continuerò a criticarla. Manifestazioni dell'estrema sinistra. Beh, e allora, e dove io non ho bruciato alcune bandiere? Attacco i governi soldati, che sbagliano e continuo ancora ad attaccare. I ai la solidarietà alle famiglie sta nel ritiro mettere, delle truppe da una guerra sbagliata. Qua sta la solidarietà. Sullo stesso piano, non dire parole che io non ho detto. Sullo stesso piano, non dire parole che io non ho detto. Terroristi non dire vergogna. Parole che io lo non ho detto perché quelli, continui così ma pensi che la tua emergency. Dinamica radicale anche, nel modo mi faccia tacere io non taccerò così si discuteva dopo i due morti in Afghanistan. Adriano da Milano, fra poco vi faccio ascoltare un altro scontro epico, per modo di dire, di questi giorni, di questi ultimi giorni in cui non siamo andati in onda, ed è quello tra De Luca, sindaco di Salerno, e Peter Gomez. Credo fosse durante la trasmissione di venerdì, l'ultima parola. Adriano da Milano intanto, buonasera. Buonasera. Adriano da Milano voleva fare un intervento e l'ha cambiato in itinere, perché alcune cose che volevo dire sono state bruciate da Rizzo. Però prendo il destro da questa audience che lei ci ha fatto sentire di questa, non so come definirla, piazzata consueta di Capezzone. Vede, a gente come Capezzone io non soltanto gli toglierei il 5%, ma lo prenderei a calci del culo, perché è uno che disonora il fatto di essere onorevole tutte le volte che apre bocca. A parte che non è deputato, e lei in particolare non è deputato. No. Meno male, speriamo che non lo sia mai. Allora sbaglio. Perché che ha fatto? Mi scusi adesso, al di là del fatto che si può criticare, in un certo senso glielo dico con simpatia, la cosa vale anche per lei. Quando lei dà alle opinioni di chi non la pensa, anzi, non si capisce esattamente bene come la pensi lei. Meno male. Però lei, guardi, si capisce quasi mai. Io la sento con molta simpatia quasi tutte le sere. Però spesso lei fa una gran confusione. Faccio confusione. Tant'è vero che il suo amico Terese l'altra sera, la trasmissione che ha fatto, l'ha tampinata bene su questo aspetto. Lei ha capito tutto della trasmissione dell'altra sera, Adriano. Comunque, io ho capito quel che potevo capire. Anche lei spesso dice di non capire cose che io capisco. Sì, certo. Spessissimo, non capisce. Lei dice di non capire delle cose. Ma su che cosa mi avrebbe tampinato Terese? Non ho capito. Su che cosa? Di prendere posizioni. Ma abbiamo idee diverse, punto, Adriano. È ammissibile secondo lei? È consentito o no? Hai consentito, però non è consentito far sempre dei percorsi di carattere serpentino, caro amico. Ma quale serpentino? Le fanno i giocatori di calcio. No, le serpentine sono anche i percorsi che si fanno molto contorti. Si chiamano molto anche così, contorti. Capito? Vabbè, allora che mi voleva dire? Al di là delle serpentine. Le volevo dire che se anche il gesto della riduzione del 5% è simbolica, però da un simbolo bisogna pur cominciare. Perché comunque questa gente va disboscata. Disboscata. Il Cameron, cioè in che senso va disboscata? Cameron è andato a Buckingham Palace, si è presentato alla presentazione di Sua Maestà la Regina Britannica con una macchina bianca di 1600 di cilindrata più o meno, cioè non aveva niente di ufficiale, è una macchina assolutamente normale. Questa gente deve riacquisire un livello di sensazione della normalità. Sì, questo è vero, Adriano, non c'è dubbio. Questo è il mio argomento. Ma questo sono d'accordo con lei. Perfetto. Quindi il taglio delle auto blu, anche se è simbolico, è corretto. Ma chi ha detto che è scorretto il taglio dell'auto blu? No, sembrava che lei dicesse, ma sì, ma non è questo, ben altro. No, ma assolutamente, taglio dell'auto blu da parte di Cota, dice il Presidente della Regione Piemonte. Cota sicuramente è un furbacchione, quindi l'ha fatto No, anche perché dovrebbe essere un furbacchione? Ha rinunciato alla propria auto blu, prendiamolo come cosa positiva, no? Ma mi sembrava che lei invece... Ho detto, non risolve il problema del... Nulla di per sé risolve un problema così grande, caro amico. Ho capito, ma non bisogna dare l'illusione, Adriano, mi scusi un attimo, non bisogna dare l'illusione. la gente che siccome i parlamentari tagliano il 5% dello stipendio, dicono di tagliare il 5% dello stipendio, allora tutti i problemi sono risolti, ha capito? Non è questo, Adriano, scusi un attimo, voglio... Dire che la gente alle cretine sia cretina. Ma no, ma che c'entra, ma chi Adriano? Qualcuno che il problema sia risolto col taglio del 5%, mi scusi, ma chi? Ma come? Il buon senso normale. Io tra l'altro le dirò che siccome viaggio molto in macchina, così come sento molto la sua trasmissione, sì, sento molto Rai Parlamento. Sì. In diretta. E allora? Guardi, mi creda, si sentono di quelle pirlate. Lo so. Che a paragone del buon senso, degli interventi che spesso fanno i suoi ospiti, sì, fanno veramente ridere. Adriano, lo so benissimo, molte le mandiamo in onda. Adriano, grazie del suo intervento. Gomez contro De Luca, anzi De Luca contro Gomez, è iniziata così con il giornalista del Fatto che parlava della candidatura ancora di De Luca a presidente della Regione Campania. Se io sono il PD e scelgo come candidato in campagna Vincenzo De Luca, che avete in studio, che magari sarà innocente, non lo so se è innocente, che segnale do ai cittadini? E De Luca a un certo punto risponde in questo modo, sentitelo. Vede, il signore che ha parlato lì appartiene ad una categoria di persone che io ho definito scherzosamente i giornalisti pipì, quelli che si formano nei salotti, che immaginano, non si sa bene sulla base di quale diritto divino, umano, di poter esercitare il ruolo di giudici, di poter massacrare la vita e la dignità di persone che non hanno nessuna voglia di sentire idiozie e che ovviamente rappresentano una parte di quella inciviltà politica, democratica, che rappresenta uno dei canali di maggiore sostegno al centrodestra. E insomma, avete sentito, fa parte dei giornalisti PP, perché una volta De Luca definì in questo modo Marco Travaglio. Va bene, Carlo da Bologna, siamo quasi in conclusione, velocemente Carlo. Molto velocemente, premesso che io credo che il deputato che lei ha intervistato un'ora fa circa fosse vero e non fosse una sua trovata di tipo cabarettistico, trovavo veramente incredibile come lui volesse paragonare il 5% di riduzione a tutti quelli che guadagnano più di X. Quelli che guadagnano più di X, lo dice il mercato quanto devono guadagnare, i parlamentari vanno confrontati con parlamentari di Francia, Germania, Spagna che guadagnano 2, 3, 4 volte meno dei nostri, quindi mi sembrava veramente una cosa assurda. Grazie Carlo, e con questo ascoltatore da Bologna che devo dire ha ragione, anche se Zaccaria diceva se pensiamo ad una manovra per avere dei soldi e per ottenere qualche denaro in più in questa situazione complicata, bisogna, secondo lui naturalmente, agire da un certo reddito in su, e dunque se un parlamentare ci rientra bene, altrimenti nisba. Ci sentiamo domani 18:30. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.